macchina si è risolto. Cos'hai, un nominativo hai avuto in passato? O solo con il nome di battesimo uscivi? No, c'è un nominativo, il mio nominativo è Alfa Delta. Alfa Delta, no, non mi ricordo, vabbè, comunque. Ma sei un vecchio CB allora, sei rientrato di nuovo, ti è venuta di nuovo la voglia di riaccendere la radio? Sì, affermativo, io sono un vecchio CB, io modulo dal 72, io ho smesso nel 76. Ho spento l'apparecchio completamente, ho fatto il collegamento del tragitto, ho detto collegato il tragitto, chiudo baracca e baracchino, invece poi mi è venuta di nuovo la mania di nuovo di attaccare la spina, perché sento a volte su questi giorni e vedi certe persone che fanno collegamento, seguo molto un tipo di farmaco. Ho capito, è 72 e anch'io sono entrato nel 72, febbraio 72, dunque 52 anni fa, 53 anni quasi, là, 52 anni e mezzo di frequenza. Bene, bene, bene, va bene, comunque, ben arrivato allora nelle nostre fila. Siamo contenti quando entra di nuovo qualcuno, perlomeno sì, che sia vecchio CB o che sia nuovo, ci fa sempre piacere. Bene, riprendi Antonio di Sassari. Bombalo! Ehi, arrivi tutto, sto guardando il bambino, mi sta imitando questa. Ma pure tu vuoi parlare all'apparecchio? Senti qualcosa. Ha preso il microfono, mi sta imitando, da da da da, perché c'è un bambino piccolo, capito? Insegnaglielo come si fa, insegna al bambino come si modula, così almeno anche lui si cresce con la passione della radio, e se Dio vorrà avremo modo di sentirlo qualche annetto, tra qualche annetto in frequenza. Ok, avanti Antonio Sorso. Ok Giulio, ma tu hai detto che modulavi dal 72, e il tuo nominativo, il Limonero, tu lo conoscevi? Sì, altro che se lo conoscevo. Il mio nominativo, il primo era stato Dribbling, poi me lo sono cambiato perché tanta gente non riusciva a capirlo, perlomeno quando facevo collegamenti con il resto dell'Europa. E allora adesso, non è proprio attuale, almeno 35-40 anni, mi chiamo Dollaro, avanti. Ah ok, sì, Dribbling, se c'era Limonero, c'era Tuaro, c'era Vulcano, ti ricordi quei nominativi? A voglia se me ne ricordo, i vecchi CB, tanta gente, Corsaro, Altavena, Macallene, e ce n'erano, Giuseppe Intrepido, ce n'erano tanti. Sì, veramente. Mi sembra che c'è qualcuno che vuole entrare, avanti chi vuole disturbare. No, non ti va bene nemmeno così, va bene. Pazienza. Avanti Bombolo. Kappa. Oggi sono con Pupo. Gabri! Non tu cannuta! Oggi sono con mio figlio, insomma, mi sta imitando, ogni tanto mi imita. Mi chiede l'ampidotto. Ah, una scena. A Cagliari, ero a decimo, ero, mamma mia, non è più gana qua, oggi sto con mio figlio. Hai fatto bene tu, bisogna che il bambino cresca insieme al padre, per cui dove eri a settimo, così hai detto, non ho capito bene. A decimo manno. A decimo, avevo capito a settimo. Ho capito, ma dall'altra parte dell'isola ieri, dai, ho capito, vabbè, dai, comunque, quando bisogna lavorare bisogna anche trasferirsi da una parte all'altra. Avanti Antonio Sorso. Giulio era in coso, in Africa era, quella africana, non è meglio questa zona che quella zona lì. Ok, a tu, nel territorio africano, vabbè, tutto il mondo è paese, soprattutto che lei, per cui ci dobbiamo voler bene ugualmente, anche se c'è una certa, diciamo, un certo campanilismo fra Sassari e Cagliari, comunque no, io, da parte mia no, di sicuro non me ne frega niente, io queste cose le ho sempre disdegnate, per cui va bene così. Avanti Antonio Bombolo. Ma sono tutti macchini, insomma, non per una partita uno deve litigare. Ma che cavolo, io sono sconsolato di dare con tutti. Ma io non, diciamo, il pallone a me non me ne frega niente, la questione è partita, del prete che va. Però ecco, dicembre che gli altri politici che lasciano di fare Cagliari di Sassari, tu quando arrivi dopo Ritano le strade sono tutte belle asfaltate, zona di Sassari non assai, no? Capito? Cioè la regione invece di essere lì doveva essere al centro della Sardegna, guarda, no? O sono una storia così. Ma vedi pure la rete ferroviaria è diversa. Per dire te ne una, mia, una cavolata. È molto meglio di Sassari. Vedi, no? Sempre perché loro sono della capitale, devono fare le cose belle, no? Noi dobbiamo rimanere sempre indietro. Io quelle cose lì, guarda, le si devi fare molto bene. Cose di Sassari, io e Sassari. Devi fare per queste qua, devi fare. Non che devi fare tutto quanto per quella zona lì. Perché anche qua, come mare, li freghiamo completamente, perché come mare il nostro territorio di quello che siamo loro. Sarà un altro posto che è bello, però come coso il nostro è molto meglio di questa cosa. La politica, purtroppo gli stessi politici sassaresi si sono venduti in chive. E tu piglia le città di Vizira, no? I sassari, e io da faccio? La Brasile non ha fatto mai nulla, gli sto facendo. Allora, ma che c'è un uomo che è entrato, mi pare un po' carino combattivo, L'altro giorno al Barone gli ha detto, no, tu poni l'autobotte in occhi, non li lasci senza acqua, non intendi, gli ha detto. Ha fatto il dovere da sindaco, ha fatto. Questo non mi sembra molto, questo qua mi sembra un pochettino dritto, Sì, io già lo conosco, quello lì si fa rispettare, no, non ha fatto bene, giustamente, c'è la popolazione, se fa partito in giro, qua tu invece, le autobotti io non si posso servire con l'acqua, non ho capito, cazzo, gli altri vanno a pagare un sacco di soldi, l'acqua ti fanno pagare e poi non ti danno pure acqua, quando arriva l'acqua è tutta quanta marrone, perché la tubazione è sporca e giustamente la melma che c'è dentro la deve smaltire, no? È un casino. Va bene, Giulio, riprendi tu adesso. Ok, a tu. In effetti così, tant'è vero, uno su tre solamente beve l'acqua del rubinetto. Evidentemente quello ce l'ha pulita a casa sua, l'acqua va. Qua di tanto in tanto arriva il cioccolato, con lo cioccolato, per carità. Tant'è vero, non la utilizziamo mai, solo esclusivamente per lavarti. Solo per quello la puoi utilizzare. Ma per il resto, per cucinare, per bere, siamo anni, ma tanti anni, io sono che non bevo acqua dal rubinetto, senza esagerazione, sono più di 50 anni, ti puoi immaginare, più di 50 anni, e ti dico perché, quando era piccolina mia figlia si aveva preso il paratifo, proprio per il fatto dell'acqua. Da allora io ho comprato sempre l'acqua minerale per bere e anche per cucinare. Poi il bello è questo, che costa già tanto la bolletta dell'acqua, tu devi spendere anche per comprarla, infatti mi l'ho comprata anche avanti ieri, ho fatto di nuovo un rifornimento e tutte le volte che vado sempre spendo 55-60 euro l'acqua, perché che comprano l'acqua per bere e l'acqua per cucinare, due tipi di acqua, no? Quella per cucinare naturalmente è quella che costa poco rispetto all'altra, perché noi prendiamo l'acqua minerale stamattina, poi prendiamo l'acqua panna e poi prendiamo la quercetta per cucinare, quella è per cucinare solamente, per cui no, al massimo possiamo fare caffè con quella, ma per il resto tu pensi solo una cosa, che mia moglie lava i piatti e poi li sciacqua con l'acqua minerale, quella che compro, quella lì che costa poco, tanto per darti un'idea, o Antonio di Sorso. Ui, già siamo messi bene l'acqua, ma poi si lamentano, cioè che abbiamo un problema dell'acqua, no? Gli dico questo, a mare ce n'è tanta acqua, e ti dissalatori, e pompi acqua dentro il bacino durante l'estate, durante l'inverno li fermi e fai la manutenzione, no? Perché d'inverno piove, sperando sempre che riempie il bacino, e poi durante l'estate li rimetti in marcia per dare l'acqua a, diciamo, al turismo e tutte quante le attività che ci sono in circolazione, capito? No, non va bene quella roba lì. È come la questione delle paleoli, che non guarda, sono incazzata a morte, dico, ma tanta gente mette poppa le macchine e tutte quante le cose, e un tempo c'erano i bombaruni, no? Quando mettevano una bomba le facevano saltare tutte. Ma non mai non le possono mettere poco le paleoliche, che se le mettono nel loro paese, se le mettono. Penso in questi che non avrebbero fatto il certo. Certo che è veramente un problema. E abbiamo degli amministratori incapaci, capito? Loro sono capaci di una cosa, a restare seduti nella loro poltrona a vita e prendersi un grande stipendio. Poi per il resto amministrare la popolazione non è per questi, perché per questi uomini che ci sono al momento, perlomeno, che sanno amministrare, per carità. Ma cosa ci vuoi fare? Tanto tu ne metti un altro a comandare ed è peggio di quello che c'è adesso e così via, ma questo succede già da tantissimi anni, senza considerare il colore della bandiera, rosso, bianco, nero, non ha importanza, sono tutti uguali, tutti. Vabbè, comunque freghiamoci, lasciamoli andare avanti come vogliono. Avanti Bombolo. Ma poi dici Baleoli che alla fin fine servono a qualcosa, a me mi hanno detto di no. E chi lo sa, io non so se sono così tanto producenti queste pale eoliche, loro dicono di sì, ma io penso che ci siano altri sistemi migliori e meno ingombranti, soprattutto rovina la Sardegna soprattutto, per carità. Perché io penso che invece che i pannelli sul tetto siano migliori delle pale eoliche, ritengo che funzionino meglio, comunque non lo so, oppure basta fare i lavori alle impianti come si deve, basta fare le dighe e mettere le turbine adatte, invece no, abbiamo per dighe noi abbiamo dei pozzetti, abbiamo, i pozzetti non ci bastano, non ho capito che ormai non ci basta più l'acqua, se invece avessero fatto delle dighe, quando piove l'acqua viene raccolta e lì si possono fare anche delle turbine, si possono mettere e rinforzare anche la rete elettrica, comunque facciano come credono, io ormai la mia età e dunque non mi devo più arrabbiare, anzi non mi sono mai arrabbiato per la politica, ma è meglio non arrabbiarsi mai. Vai Antonio Sorso. Sì, in effetti hai ragione, allora queste paleoliche non servono a niente per la Sardegna, cioè per la Sardegna è un capitolo che per sottomarino, che abbiamo necessità di corrente, ne spostiamo corrente dalla Sardegna, quindi non abbiamo bisogno di niente. Noi abbiamo bisogno solo di acqua, perché una volta, guarda, c'era un installatore dentro lo stabilimento della Sile, no? L'hanno brevettato a Porto Torres, poi l'hanno venduto a Gigici, però il brevetto se l'hanno portato in Sicilia, perché Leni c'ha la sede legale in Sicilia, questa è la mafia, no? L'hanno portata lì, l'hanno portato e qua. potrebbero, diciamo, costruire i disciamatori e metterli in funzione. Che fanno i disciamatori? Devono irrigare i campi, devono fare la, che si chiama l'agricoltura, deve avere la sua produzione e tutte quante le cose, perché se non piove l'acqua da dove la prende? Un domani dovranno adottare quel sistema lì, buttare acqua. Tutti quanti i paesi della Sardegna si lamentano, siccità, però nessuno parla mai di dissalatori. Che ti dissalatori? E ha colpito la popolazione del fatto di fare anche lì. E di fare i pochi. E infatti è così, siamo un'isola circondata dall'acqua, da una parte all'altra, tutta attorno, e non riusciamo ad avere l'acqua sufficiente che serve. C'è una vergogna, figurati se mettono i desalatori. Ma lo vedi che è tutta gente che non ne capisce la cittadina? Ma tu sei convinto che quelli che sono lì in regione, oppure in provincia, in comune, eccetera, siano capaci e all'altezza di poter amministrare le persone? Sono tutte persone che hanno avuto la fortuna di occupare quella poltrona solo per prendersi un bello stipendio, ma capacità proprio professionali da amministratori non ne hanno, non ce n'è nemmeno uno, ma non da adesso, da tantissimi anni, per cui non c'è da meravigliarsi. Comunque facciano come credono, intanto la mia pensione è sempre quella, guarda, o che ci sia uno comandante o che ci sia l'altro, la mia pensione è sempre quella. Vai Antonio Sassari. Antonio, lascia giocare Gabriele. Capo, io ho cambiato radio, Un attimo, aspetta che prendo il bambino, lo porto qua, se no si arrabbietta. Un attimino, Lascialo giocare il bambino, mettilo in un posto sicuro dove non si può fare male, ma lascialo giocare a conto suo, non c'è problema. Vero Antonio di Sorso? Sì, bisogna farlo giocare il bambino, almeno sente un pochettino la radio. Anche lui domani, anche lui metterà. Come dicevano, importante andare avanti, noi tanto ci incattiamo, tanto a quella gente non gliene importa niente, l'importante è che arrivi il 27 per loro, noi, meno male dobbiamo tirare avanti con quella pressione che ci danno. Infatti è gente che non regge l'importanza che hanno dell'amministrazione, eccetera, non reggono perché non possiedono le capacità, non ce la fanno. Io quando mi sento parlare alla televisione, tanta gente, soprattutto in Sardegna, guarda, io sono nato a Sassari, cresciuto e pasciuto sempre a Sassari, per cui ho la certa età, ma quando mi sento parlare non sanno nemmeno parlare l'italiano correttamente, è una vergogna. Io capisco, uno non ha studiato un granché, come posso essere io, e non parlo correttamente l'italiano, ma questi che si considerano tutta gente che ha studiato sono degli grandi ignorantoni, proprio degli grandi ignorantoni, guarda, io la penso così. Bombolo, ebbene il bambino l'hai preso e ti sta facendo disperare, ho capito Bombolo. Capito Antonio di Sorso? Io la penso in questo modo. Tante volte, io ad esempio in quel periodo che stavano facendo la tribuna elettorale per diventare sindaco di Sassari, c'erano 5-6 che erano tutti candidati a diventare sindaco a Sassari. Io quando li ho sentiti parlare, e questi hanno il coraggio di voler amministrare Sassari, ma se non ce n'è uno che sa parlare bene l'italiano, ma dai, che vergogna, ma comunque. Avanti Antonio di Sorso. Come? Vai Bombolo. Due, sicuro che una massa di ignoranti. Qualcuno era un po' più tranquillo, capito? Tipo questo sindaco di adesso mi sembrerebbe che si usa una vera chitarra, a me è tempo che è bravo, è un musicista, a me sembrerebbe tranquillo. Ma tu non lo sai cosa fa di capo? Tu non lo sai cosa? Cosa fa di un nonno di chissà? Non lo so, non è che li conosca molto, io gente sento suonare della chitarra ed è bravissimo, la chitarra elettrica. Lo so, un nonno potete, ma chi sta a fare qua, perché dice, no, aveva l'attività del servizio, no, lo faceva il tassista e chiedeva il cappello. Ah, allora, non è che li conosco molto, non è che li conosco molto bene. Forse Giulio, tu lo conoscevi il nonno? No, no, non lo conoscevo, non l'ho, perlomeno penso di non averlo mai conosciuto, eh. E non ho capito nemmeno che cosa faceva il nonno, mi è sfuggito quello che avevi detto, altro, dimmi, ripeti, fa la cortesia. Il nonno faceva il tassista, Piazza Castello. Ah, ho capito, ho capito. Piazza Castello, magari guidavo quelle macchinette a tre ruote, tipo il motocarro, quello gabinato. Eia, eia, e da poi va via Luvar via Carlo Felice, quindi per assicurazioni, chiude all'angolo, parta a batti. Ho capito, ho capito. beh, vabbè, a tutti i tempi, anche quello. Io già li ho vissuti quei tempi lì, perché ho la certa età, per cui già me lo ricordo bene, me lo ricordo, quel genere di vita che ci facevo allora, qui a Sassari. Va bene, avanti a tutto, tu non li hai conosciuti quei taxi che c'erano lì in Piazza Castello? No, troppo piccolo, troppo giovane sono. Però ho visto le fotografie, ho visto. Sì, beh certo, le fotografie già le avrei sicuramente viste, lo so. E vabbè, ci sono stati tanti cambiamenti a Sassari, non solamente lì. Tu dovevi vedere com'era prima, per carità. Ad esempio, tanto per fartene, per dirtene una, ad esempio, tu la rotonda, la torretta che c'era lì alla stazione, non l'hai conosciuta nemmeno, davanti alla stazione c'era una specie di chiamiamolo belvedere, con tanto di cose, di gradinate, con tanto di muri tutti attorno, e con tanto di lampioni antichi, e poi c'erano anche le sedie per sedersi, con le sedie in ferro, eccetera. Quando è arrivata una certa amministrazione, la stanza l'ha preso e l'ha fasciato tutto, e ha rovinato la piazza, ha rovinato la città, un monumento che era valorosissimo per Sassari, e ne l'hanno fasciato. È arrivato che tombano questa specie di cosa di parco erba, avevano fatto, e poi avevano pure un treno. Va bene, avanti Antonio, risorso. Erano le motorette alte, tre ruote, erano tutte verdi, perché il tetto era tutto col vertice nera delle motorette, se non ricordo male. Poi Piazza Castello c'era il posteggio dell'Ancio, di Rassata. C'era il posteggio a destra e il posteggio a sinistra. E poi hanno fatto tutti, quando è stato infiltrato, non è capito, il suo monumento lo terrà. Mi hanno fatto un po' per incazzarsi, guarda. E comunque quella persona lavorava lì e poi trovava l'attività lì su, poi lì hanno venduto loro, hanno avuto la fortuna di metterlo più sulla attività, e c'è l'altro nipote che gli succede. Ho capito, sì. Vabbè, ormai anche Sassari è cresciuta, prima erano poche strade, adesso già è cresciuta abbastanza. Se per quello all'angolo lì del ferroviario, del cinema ferroviario, c'era anche un coso, c'era lì alla stazione, un rifornitore, proprio all'angolo, c'era un rifornitore anche lì di benzina. Poi c'erano le carrozze con i cavalli tutto attorno, parcheggiate lì davanti alla stazione, altri tempi, cose belle comunque, e bei ricordi, perlomeno per chi li ha conosciuti. Chi non li ha conosciuti chiaramente non se ne può rendere conto, per cui non gli interessa di sicuro, però per chi li ha conosciuti come me, sono bei ricordi. Va bene, avanti Bombolo. Fino a pochi anni fa io ogni tanto prendo il treno per andare a Olbia, eccetera eccetera, poi da pochi anni fa si moriva al caldo, si moriva entro i treni, adesso è ben attrezzato. Il treno usi un salotto, il treno non è come la caffettiera di una volta, no? Tu fai un fumo, che è una cosa impressionante. Tutte le volte quando partiva dalla stazione, cioè, il fumo rimaneva tutta la mattina, rimaneva prima che sparisse del tutto, per carità. Oggi è tutta un'altra musica e tutto. Intanto i treni hanno una comunità differente, prima erano tutti duri, sentivi, oggi è diverso. E poi sono anche un po' più veloci. Anzi, adesso li stanno anche migliorando, perlomeno l'avevo letto tempo fa, avevo letto che per Sassari, per la Sardegna, perlomeno avevano, o compravano, non so se l'hanno già fatto, compravano dei treni nuovi e di quelli ad alta velocità. Ma per fare l'alta velocità devi anche rimpostare le linee, perché qua non ce le abbiamo noi le linee per l'alta velocità. Io penso che sia così, comunque vedremo cosa fanno. Avanti Antonio Sosso. Vabbè, i treni sono nuovi, ma capita di andare in bagno, non c'è neanche un bagno, che va a sopra l'Alghero, così che da treno giapponese, vedete quello che fa. Ma è così. Sono belli, ma diciamo, ma mancano le comodità. Ma non so se c'è anche il climatizzatore, sì, forse il climatizzatore c'è, però mancano i bagni. No, non è così, lo sto dicendo io che viaggio molto. C'ha tutto, c'è il bagno, l'acqua, tutto quello che può avere. C'è la corrente per caricare il telefono, tutto, l'aria condizionata. Non è così, dall'A alla Z. Hanno messo anche il fasciatoio per cambiare i bambini, quelli nuovi. Non è più così, no. Sto dicendo uno che viaggia molto in treno, che va a Urbia, va a Cagliari, va a Nagnarucco. Percorso lungo, però percorso corto. Sì che c'è, l'ho preso anch'io quello da Ghero, qualche mese fa c'era. Allora vuol dire che la ne buttava, anche prima non so, no, io non esisto, forse era da qualche altra parte, ho dovuto che non c'era, diceva che era lì, era lì, io non vi posso recare come sono oggi i treni lì all'interno, però già si vede anche la differenza da come erano prima a come sono oggi, anche perché io senza sedere in treno sono qui, altro che 50 anni, io viaggiavo molto in Sardegna quando gareggiavo qua da Atleta, quando ero ragazzo. Allora sì, mi ricordo 4 ore per andare a Cagliari, ma carità, andavo a correre, a gareggiare, poi alla fine dovevo per forza prendere l'aereo, era più conveniente, perché quando andavo a vedere che c'era comodo, se no non riuscivo nemmeno a fare la gara, perché tu andavi sì il giorno prima di fare la gara, l'indomani ancora tra quelli dal viaggio in treno. E allora la società, che mi sono lamentato, io e i colleghi sportivi, ci siamo lamentati, allora la società ci pagava il biglietto e andavamo con l'aereo. Era diverso, in 25 minuti eravamo a Cagliari, a Elmas praticamente. E vabbè, avanti Antonio Bombolo. Sì, comunque. Io ci viaggio, non sto dicendo, ci viaggio spesso, anche a portare a Gabriele, sono tutti pieni di comodità adesso. In 3 ore qualcosa sei già a Cagliari, sì. Perché poi lì nel Campidano, cazzo, viaggiano forte, viaggiano anche a 140, a 145 km/h, anche più, anche qua da alcuni tratti. qua nella zona di già sarei manco ma idea, però nel capitano ti posso, da un ristano in poi ti posso dire che viaggiano forte i treni. Beh, sicuramente in quella zona lì la strada è più scorrevole, è più dritta, diciamo, dai, con meno curve, anzi forse niente curve anche. Io adesso non lo so come la linea, se è sempre la solita, come quella che ho conosciuto io quando ero ragazzo che viaggiavo, però suppongo che siano migliorate, ma comunque già lo sappiamo che sono migliorate, già si vede, poi già sentiamo anche le persone, perché se no la gente, ui, e chi ci sarebbe più andato? Prima si andava ad Alghero, al mare in treno, a Porto d'Orra. Oggi magari non ci va più nessuno a mare in treno, e chi ci va? Qualche ragazza ci può andare, ma di solito oggi la gente ha la macchina e non gli frega niente. Vabbè, grandi percorsi, magari come stai dicendo tu, per lavoro eccetera, quando tu vai per lavoro, per cui ti conviene anche il treno, se no che sono i guadagni, la giornata che guadagni te lo consumeresti in benzina tu, non è così a tu? Quando vado a fuori vado a fuori. C'è mia sorella, parenti, e poi qualche volta scendo anche a Cagliari. Non sto a spiegare adesso il perché. Comunque lo prendo spesso. Ti posso dire che c'è tutto, no, sono tranquillo quando viaggio, però. Tu hai un problema col microfono comunque, sì, intanto inizialmente era muto, la radio era muta, poi andando avanti qualche colpettino l'ha mancata ugualmente, o non schiacci bene oppure ha qualche problema al microfono, vedi un po', cerca di controllare. Avanti Sorso? Break. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera a tutti, 103.51, ben entrati. Ben entrato anche a te, sono con Antonio Di Sorso. Familiare. Sono con Antonio Di Sorso, un vecchio CB degli anni miei, diciamo, come militanza in frequenza, e poi c'è Antonio Bombo che gli ho dato un consiglio di dare una controllatina al microfono, perché io ho registrato una anomalia nel microfono di Antonio. Vediamo se l'ha sistemato. Antonio Bombolo? No, forse non ho premuto bene. Sarà così, è possibile che sia così. Dai. Ti mando avanti Antonio da Sorso o Gianni. Avanti Antonio da Sorso per Gianni. 73 Gianni da parte di Alfa Delta. Però tu dovresti essere nella zona mia, dovresti essere, un pochettino forte. No, io sono sempre a Sassari, buonasera. Sono sempre a Sassari, ci siamo sentiti anche ieri, dai. Sempre a Sassari sono, zona mia Baldella, dai. Ah, ok. Siamo anch'io allora. Tu dove sei? Non è che sia sei lontano io, no? Più lontano sono io, dai. E più lontano è anche più debole, perché sto scendo con soli 2 watt, per cui, ma visto che mi sta rispondendo Antonio Assorso, vuol dire che già mi sente, e a me mi va bene così. Quando mi sentono mi va bene così. Confermi Antonio Assorso? Affermativo, io ti sento, non ho problemi, ti sento benissimo. Non ho nessun problema, perché arriva propagazione, lo sai benissimo che ti supera il segnale e poi non ti sei. Ok, comunque potresti anche sentirmi meglio volendo, tipo in questo modo, così potresti anche sentirmi meglio, ma non è il caso, ritorno come prima, ecco, io ritorno come la prima. Va bene, avanti Antonio Bombolo. KK. Io sono a Latte Dolce invece, a Lima Delta. Lui è un pochettino nella zona un pochettino più alta, per quello magari lo senti un po' meglio di me. Sì, mi arriva più forte di te, mi arriva già. Sì, già, collega Baldella. un pochettino più forte di te, non lo so, questo di lavoro da fare, utilizzando, io sono liscio liscio, sono antenna e basta da fare. Anch'io sono liscio liscio come Giulio, l'antenna che è il master è un omologato, niente di più, solo che l'omologato può fare due basse e ne può fare anche 10, tutto lì, però sempre di omologato si tratta. Avanti ancora Antonio Di Sorso? Sì, io sto dicendo, ma fai le mezze di perché è normale, non c'ho nulla sotto, è normalissimo. Proprio solamente di altre cose, allora stavo mettendo a posto tutta quanta la questione, qua a casa. Adesso, fino adesso non si è sentito nessuno. Ok, ho capito. Bene, bene, bene, comunque già ti sento bene, non c'è problema. E poi stai usando anche un microfono normalissimo, tu non stai usando nemmeno un microfono preamplificato, niente. Io sto usando l'MB più 4 comunque. Avanti Gianni. Ehi, allora, e anche io sono normale, solo che c'è un microfono amplificato, dico la verità. Tutto lì. Allora, il microfono amplificato. Sono microfoni buoni, dai. Questi qui sono gli ultimi, il KPO è l'ultimo, uno degli ultimi che è uscito e va bene. Già lo credo che va bene. Cioè, il microfono amplificato anche spacca orecchie addirittura. Infatti tutte le volte che parli io abbassolo perché perché aumento per sentire gli altri meglio e poi abbasso quando parli tu. Ma non mi interessa, per me va bene lo stesso. Tu esci e trasmetti come ti pare e ti piace, perché sia a casa tua, l'apparecchiatura è tua e ognuno esce e modula nelle condizioni che gli sono più comode, non c'è problema, io non mi lamento. Bene, avanti Bombolo. Gabba, io in questo momento ho il Mida, accetto plus, perché sono in camera da letto e ho quell'apparecchio lì, capito? Se non prima stavo modulando col Cobra. Ok. Anch'io ne ho uno di quelli Midland Plus, che fa anche versione europea, eccetera, è trasformabile anche in 400 canali, però purtroppo non funziona, c'è il finale bruciato, me l'aveva bruciato un lampo una giornata di temporale che avevo fatto, io a casa non c'ero e dunque era tutto attaccato e mi avevo bruciato diverse cose. Comunque non mi interessa, non l'ho mai aggiustato perché aggiustare la sfera da fuori costa quanto comprarlo nuovo, sicché non ne vale la pena, però lo tengo così perché è nuovo, fiammante, sai cosa vuol dire fiammante? Se lo metti in vetrina nessuno può dire questo è stato usato, è un peccato tenerlo così, però chi te l'ha giusto questa storia? Non c'è nessuno, se lo vuoi riparare lo devi mandare fuori, lo devi mandare, per cui ma tra una cosa e l'altra tanto vale comprarlo nuovo. Avanti Gianni. Io puoi mandare anche a coso, come si chiama, quello che c'è in quel paese, ma non mi vede, almeno li prepara, manda a lui. Poi ho letto su internet che c'era uno che in qualsiasi posto andava, ritirava i baracchini e se li portava via, in qualsiasi posto era. Ho letto su internet l'altro giorno. E addirittura, è di Sassa, della Sardegna, solo così poteva fare, non certamente non è che veniva dalla penisola qua, no? Non lo so se era Sardo, se non dov'era, però c'era scritto ritiro gli apparecchi da aggiustare e poi li riporto riparati, va. Penso che sia qua, perché anche non ci sarebbe il tanto se no. E appunto, è quello, il ragionamento è facile da fare, no? è da capire, vabbè, comunque, se dovesse veramente capitare l'occasione, lo posso anche far riparare, non c'è problema. Io stavo sempre pensando, perché io ho una certa fiducia di un certo, Framic, non so se voi lo conoscete, io lo conosco tramite YouTube, lo conosco e so che ne fa tanti, ne fa le modifiche, insomma, lui sa fare, ed è in Puglia, ma ripeto, tu cominci a spedirlo là, lo mandi lì e ci vogliono una ventina di euro, andate al ritorno altre 20 diventano 40, diventano, una riparazione minimo, vuoi che non ti prenda almeno 100 euro? e sono 140 euro. Pensa che questo plus costa 120 euro, nuovo, a ne vale la pena a ripararlo. No, è bello perché, ripeto, ha la versione europea, no? E ha diversi canali anche perché lo puoi trasformare in 400 canali. AM, FM, niente di più. Però è bello, è bello, è bellino. È una bella radiolina, una bella radiolina, ma non ne vale la pena ripararla. O te la ripari qua a Sassari e allora tutto è diverso. Ma mandarlo fuori non ne vale la pena assolutamente. Avanti, bombolo. Così. Cappa, è così. Ma che cavolo, anni di 100 plus, questo qua è la versione bicola che ho io, bello, vado a fusare o tiro con pareggi, c'è in vetrina, non perdi manco tempo qua. Appunto, questo qui era stato comprato da Tonino, a Serra Secca, lì, con il negozio di Serra Secca, e si chiama Midland 78 Plus, si chiama, questa è la sua, Midland Alan 78 Plus, questa è proprio la sua versione, perciò, ma comunque, ripeto, costa 120 euro, non ne vale la pena mandarlo fuori, pazienza. Avanti, Sorso. Giulio, ma scusa un attimino, se c'è il finale partito, come ne ordinate il finale e poi te la faccio sentire, lo porti da qualcheduno, scusa, non è che vi voglia Gesù Cristo, ma facciamo un finale di un affaretto. Scusa, deve tirare via il pezzo vecchio e montare il pezzo nuovo, se è solamente il finale, poi se c'è altri problemi, allora giustamente dice non ne vale la candela ripararlo. Però un finale penso che costerà sui 15 euro, se costa pure, perché basta guardare su eBay, guarda più o meno il prezzo che costa il finale di quell'apparato. Sì, ma lo saprei fare anch'io, perché non è che sono radiotecnico, però un'infarinatura dell'elettronica ce l'ho. Il problema è che questo finale è nascosto da una schermatura che per disaldarla, la schermatura che è a contatto con tutto il telaio, l'intelaiatura, ci vuole un saldatore di quelli a martello potenti, perché quel saldatore che ho io, quelli a puntale, non è sufficiente per poter sciogliere lo stagno, per poter staccare questo metallo che c'è tutto attorno, perché sennò non puoi arrivare al finale. Però misurandolo con lo strumento ti dice che il finale è bruciato, però per staccarlo devi togliere prima questa armatura. Tu immaginati una squadra, cioè dico la squadretta, non la squadra, la squadretta, no? Ed è saldata nell'angolo dell'intelaiatura, sia nella parete che nella parte di dietro del coso, e ci vuole, perché è una cosa lunga che saranno almeno 5 cm per parte, e ci vuole un saldatore che scaldi in una certa maniera per poter disaldare questa cosa qua. Io non ce l'ho, per cui il saldatore non me lo compro, perché questa è un baracchino, se che tanto male lo lascia com'è. Capisci, Antu, cosa ti ho detto? Ci vuole una sorta di saldante, ci vuole, che abbia abbassato la temperatura. In poche parole, scaldi e ti ridia tutto quanto lo stacco. Però ci vuole un saldatore speciale, ci vuole per fare questo tipo di lavoro. Questa sarà una cantata del finale di fondo. Dunque bisognerebbe vedere un pochettino l'attenzione. Se non ne vale la candela, allora ti viene lì come ricordo. Quando non ci saremo più, ci sono i giovani, quindi mi ha lasciato questo. Io non so se funziona o non funziona, perché ne vedo tanti che vengono e rompe, che non sanno se funziona la cosa o manca qualche cosa, e poi lo mettono in vita. Beh, io devo lasciarvi adesso, scusate, ce la risentiamo, ciao ciao. Ciao Antu, ciao, buonasera. Ciao Antu, buonasera. Ciao Antu. Ciao Antonio, alla prossima. Chi era quello? Luca? Oh, ciao Giulio, ciao Gianni, ero qua che stavo facendo delle misurazioni. Marco da questa parte, volevo chiedervi se sentite qualche difetto nella modulazione, qualsiasi cosa, ronzie, alternate, vedete un po', mangio tre. Le corna, sentiamo, le corna stavi misurando. Ciao Marco. Ciao Marco, tutto a posto Marco, non c'è problema. Ciao Natalino, avanti. Ciao Natalino, ben sentito, dai, spero in condizioni migliori. Va bene, tutto a posto, dai, io sì, mi ero sentato praticamente all'inizio della serata e poi mi stavo zuffando con cavi, cavetti, eccetera. Proseguite pure, vai Gianni. Ciao Natalino, buonasera, dai, ciao Marco, ben sentito anche a te. Giù, se non ne vale la pena quell'apparato, a meno che lo porti lì dove sei tu io dal Miro, e ci va qualcuno per portare qualche altro apparato, mi pare che anche giornaliere aveva uno da aggiustare, raccogliami che pari. Infatti, cioè non ne vale la pena neanche per quello, per andare direttamente, perché Morole sono sempre 80 km più o meno da Sassari. L'unica soluzione è che mi aveva promesso Carlo, quando capitava che andava per dire verso Bonorva o in quella zona lì, avrebbe potuto fare un allungo con la macchina e magari l'avrebbe potuto portare lui, ma bisogna che capiti anche l'occasione che lui vada da quelle parti, ma andarci io direttamente non ne vale la pena, fare 160 km per cosa? Ma dai, dai, tanto male, vado lì di nuovo da Tonino, me lo compare giù nuovo, 120 euro, non se ne parla più. Io l'ho preso così. Vediamo che voglio sentire Natalino, avanti Natalino. No, riprendete voi, non ce la faccio oggi, non ce la faccio, dai. Sono entrato a fare una battuta e boh. Bravo, d'accordo Natalino, come preferisci tu. Avanti Antonio Risorso. Ok. Ma poi c'era anche questa velocità, CH23 chiaramente. Non so se si può anche, perché lui faceva qualcosa di apparato. Ma io non lo so, però mi sembra di aver sentito, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che quello lì non c'è più. Io avevo sentito che non c'è più. Non c'è più nel vero senso della parola, vorrei sbagliarmi, per carità, ci mancherebbe altro, però mi pare di ricordare che qualcuno l'aveva detto. Vero Gianni, non so se tu sai qualcosa. No, no, non lo so, io me lo ricordo, però non so se sia morto o meno. Comunque ho trovato quella ragazza morta, quella che del marito, quella del Cagliaristano. Bel elemento quello, l'ha ammazzata la moglie, 32 anni, e l'ha portata a 50 km da casa sua, l'hanno trovata. Che vergogna, ma io non lo so, che è andata di gente così selvaggia, che sono selvaggi, non sono persone umane. Ma come si fa ad andare a ammazzare la moglie? Né la moglie, nessuno, non ammazzo la mosca io, figura di un poco che pensa, se mi potrebbe venire in mente di ammazzare una persona, ma cose assurde, ma con quale coraggio, i taglienti sono proprio, vabbè comunque, ognuno ha il suo carattere. Avanti a tu. Ma l'hanno trovata la moglie di quel tipo che è in casata? Perché gli avvocati oggi stanno, sai, chi dice di voi l'avvocato Magna, diceva che lui non era colpevole. Ah, così che l'hanno trovata, deve essere quelli cani che hanno portato da fuori allora, che l'hanno trovata. Sì, quei cani molecolari che hanno la polizia eccetera, l'hanno trovata 50 km da casa sua. Tu immaginate che cosa di coraggio che ha avuto questo. Prima l'ha uccisa, poi magari l'ha caricata su una macchina e cioè, l'ha portata per cercare di confondere le idee alla gente, soprattutto alla polizia che magari l'avrebbe cercata. E questi sono barbari, sono selvaggi, pacare dai, vabbè dai, comunque, di Putin nella vita ce ne sono tanti, vero Gianni? Gianni al telefono, sicuramente, già ne prende fra un po', sicuramente al telefono, dico di Putin, tanto ce ne sono tanti, perché pure lui è un bambino selvaggio, poi si è considerato che le piace fare la guerra, così ammazzare migliaia e migliaia, centinaia di persone, migliaia di persone con queste armi così micidiali, e non ha nessuna intenzione di smettere quello lì, non ha nessuna intenzione, bel coraggio, fatto comunque. Nemmeno le belve così. Le belve non sono così. Vediamo se è rientrato Gianni. Gianni? No, non è rientrato. Gianni è impegnato al tour, riprendi. E chi tu la passa durare la fidanzata, gatta, che ce l'hai la tua scrittura, il lui. Ah, va bene, la tua vita, la tua vita. E la tua vita di tutto il bocci. Ma neanche per te, che gli avrò fatto per le persone lì, è una cosa. Ah, che schifo, che fai. Tu la legge la vita, che cazzo mi fa di tutto. Ah, troppo... Io la vedo così, è abbastanza. Invece guarda, e che avrei chiamato? Quindi ti avrei fatto fare una bella fine. Se mi avete chiamato, scusate che era al telefono. Dice, non è compatibile per poter stare in carcere. Prende e lo mettono fuori agli arresti domiciliari. E chi tu ha ammazzato una femmina, ha ammazzato una bassona. Ma non è possibile, ragazzi. Ma quando mai? Quelli dovrebbero fare la pena di morte. Tu mi dai, non bisogna ammazzare nessuno. Certo, ma queste sono persone pericolose che bisognerebbe eliminare dalla società contemporanea. Perché non è possibile che si possano dare da mangiare questi selvaggi qua. Perché questi sono selvaggi. Sono peggio delle belve. Ma non è possibile. Tu hai fatto questo. Ma ti possono mettere il trattamento. Così almeno l'umanità non ti mantiene in carcere. E magari ti burro la pensione quando raggiungi l'età. Perché è così, Comunque è una vergogna veramente. Quest'anno mi sembra che Gianni hanno ammazzato 58 di persone, una cosa così, 58 donne. E meno male che avevano fatto anche la manifestazione di protesta per non fare più queste cose. E invece questo l'hanno fatto l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso. E invece quest'anno già in Italia ne hanno ammazzato già 58, più o meno, mi ricordo di che sono, come il numero sono così. 58 donne uccise o dai fidanzati oppure dai mariti, dimenticato che hanno il cervello. Vabbè, comunque, davanti a tu. Ok Giulio, io riprendo, passo in quel recupero che devo fare solo. Ok, casomai già ci sentiamo Giulio. D'accordo, buona serata e 73 a te famiglia. Ok, ciao, buona serata. Ciao, ciao a tutti. Grazie a te per la chiacchierata, dai, fatti sentire di nuovo, avremo modo di cambiare ancora quattro chiacchiere, non ci sono dubbi, è un piacere. Ciao di nuovo a tu, grazie ancora, buona serata a te. Vabbè, io adesso rimango un attimo in ascolto, vediamo un po' se c'è qualcuno, se no pazienza, chiudo tutto, non se ne parla più. E perché io non sono qualcuno? Ti ho chiamato due volte, non hai risposto. Perché ha squillato il telefono, se non andate a rispondere erano quei rompiscatole che telefonano sempre per la pubblicità a Fannapoli. Se non avessi saputo non mi sarei manco alzato per rispondere. Niente, giuro, la giustizia non esiste qua in Italia. Io ho un amico che è andato a prendere la figlia che va in un centro per riabilitazione perché ha problemi tipo autistica, è andato a prenderla, era con la moglie, stava tornando a casa, due passi da casa, questo qui gli si è sbattuto alla macchina, la moglie è morta, lui in grave condizioni, la figlia lo stesso, sono stato all'ospedale un bel di tempo. Beh, quando è uscito dall'ospedale si era trovato in giro con la macchina, quello che ha causato il incidente, era ubriaco, no? Tra l'altro, l'hanno trovato ubriaco quando... E se l'ha trovato in giro, ha detto se io lo rivedo lo ammazzo, perché la giustizia non ce n'è qua. Lo so già, lo so, purtroppo è così, ci sono anche queste persone, che poi tra l'altro quello lì aveva avuto, ho ritirato la patente da almeno 2 anni, e lui continuava a guidare, continuava senza assicurazione, senza niente, e soprattutto ubriaco. Anche qui, quella gente che vuole eliminata dalla società, è gente pericolosa, purtroppo è così, ma quello è già un pochino più sopportabile, tra virgolette, chiaramente, perché nemmeno quello si deve accettare, ci mancherebbe altro, nel senso che è un incidente e questo è l'obbligo. ubriaco e ha causato questo incidente ed era condannato, non ci sono dubbi. Però quello che va e ammazza, ragazzi, un'altra persona così, senza magari motivo, solo perché hai bisticciato o perché non ha le tue idee, questo è proprio da condannare e ammazzare subito all'istante, perché non puoi mantenere dei disgraziati, dei delinquenti del genere in società. Io la penso così già. Ma se tu con una persona non vai d'accordo, basta che ti muori e basta, perché devi stare... Poi non sai cos'è, dopo che ti separi, poi trovi un accordo, trovi a mente fredda, trovi un tipo di accordo, una soluzione per stare anche, per avere un rapporto tranquillo, capito? Appunto, tu immaginati poi soprattutto quanto costa alla società queste persone, quanto costano una marea di soldi, processi contro processi, oltre al fatto che poi li devi campare in carcere, no? Anche se sono carcerati, però li devi campare, chi paga? Paga sempre l'italiano, il povero lavoratore per questi delinquenti, tu immaginati, vabbè comunque. Purtroppo i casi della vita sono anche quelli, però non è accettabile, guarda, non è accettabile che uno si faccia giustizia da sé, si faccia ammazzando soprattutto un'altra persona. Io posso capire, hai bisticciato, hai dato lo schiaffo, gli hai dato un pugno, gli hai dato quello, ma dunque prendi e gli dai 37, 40 coltellate come fanno questi malvagi qua, è proprio veramente inaccettabile, non è possibile. Io la violenza la condanno in ogni caso, specialmente su una donna. Comunque, non ritengo giusto manco che si prenda a pugni, che si infitti una donna, però arrivare a questo punto in effetti è proprio da mentecatti, da persone che non hanno cuori, che non hanno niente. Purtroppo ci sono queste cose, specialmente nel napoletano, quanti ce n'è di casi che picchiano le mogli. Io lo so perché su internet ho conosciuto molte ragazze, molte che vengono picchiate dai mariti. Ma se ce ne sono quasi tutti i giorni in televisione, se ne sentiamo le notizie che vengono picchiate così. Ma poi c'è da dire anche un'altra cosa, no? Ad esempio, prendiamo quella Giulia, quella che era stata uccisa dal fidanzato, marito, eccetera. E lei aveva capito che questo qui era un elemento da non frequentare, eppure lei ci è rimasta. Ma quando mai, ragazzi, da una persona che ha un minimo di cervello non ti rendi conto che quello era un elemento pericoloso e tu ci continui a stare? Ma perché ci stai? Perché? Dice l'amore. Ma quale amore? Ma come fai uno ad innamorarsi di un vigliacco del genere? Eppure poi alla fine, visto cosa ha fatto, l'ha presa, l'ha dato 27 coltellate e ha cercato anche di disperdere il suo corpo, nascondendolo in qualche maniera. Poi alla fine, finché ha parlato, l'hanno trovato. Purtroppo così. E sono sempre le stesse storie, Gianni, sempre la stessa storia. O in un modo o nell'altro la storia è sempre quella. La storia finale è sempre quella poi. Io la so diversa la cosa, so che lei l'aveva lasciato e che lui aveva detto che si ammazzava e lei aveva paura che facesse un brutto atto, invece ammazzata era, capito? Lui gli aveva detto che si ammazzava se non tornava con lui, e invece è stato lui che l'ha ammazzata, capito? È tutto il contrario. Sì, ma è uguale già, non cambia niente, cioè il comportamento non è che cambia. Una donna si deve rendere conto con chi ha a che fare. Se tu hai una mente così assurda, la devi lasciar perdere, vai e denuncialo subito, così almeno cerca in qualche maniera di bloccarlo. Non puoi rischiare poi che diventa pericolosa per te personalmente questa persona, perché queste persone finiscono così. Alla fin fine sono pericolosissime. Tu mi dirai, ma uno alle volte si comporta, sembra che sia tutto tutto bravo, tutto perfetto, tutto onesto, invece in realtà io dico che una donna se ne dovrebbe accorgere. Tu mi dirai, ma è accecata dall'amore, d'accordo, sarà pure così, io questo non lo posso dire, non lo posso giudicare, però mi sembra strano che una persona che frequenta un'altra persona non si renda conto che quell'individuo ha qualcosa che non può andare bene, che non può starci con quello. Io non riesco a capire come mai non si riescano a stabilire certe situazioni. A volte sono anche le condizioni, magari non c'è lavoro e bisogna sapere le cose. Io le ho sentito diverse, magari non avevo lavoro, hanno dovuto subire, il marito passava mentre mangiava, la prendeva a schiaffi, gli dava un colpo dietro la nuca, lui senza motivo. Appunto, lo so, appunto è quello. Questo vabbè, questo barista al lavoro ce l'aveva, ma anche se uno non c'ha lavoro, anche quello non è lavoro, e allora cosa vuol dire da me? Che io rimango